Restoradio Convento, per raccontarsi. E buonasera ragazzi, noi siamo buonasera. In compagnia di due ragazzi che diciamo sono parenti a quelli che abbiamo già ascoltato prima, scommetto, esatto. Giusto? Come vi chiamate? Siamo parenti. Parenti? Elena. Matteo. Che se la ridò di brutto, perché è la prima volta che entrano secondo me in radio, giusto? Certo. È la prima volta. Sono super gasati. E indovina dove siamo? Allora, aspetta, dove fanno Bergamo? No. Bergamo, bravo. Ah, mi ricordo, ragazzi. Dove Festa. Fanno la polenta? Brava. Festa della Taragna, brava. Anche mi hanno invitato i vostri amici, ha detto vieni, ma a me non piace la polenta. Ci sono tante altre cose, fidati. Mi hanno detto solo della polenta, però. Fidati. Tu fidati di me. Spiedini, costine, manzi. Ah, ok, allora non c'è problema, c'è di tutto. Allora quando vengo ve lo dico, ragazzi, così mi fate da guida tutte le cose buone ti da facciamo assaggiare. Il saltafila. Allora vengo di sicuro, ragazzi. È la cosa importante. Come minimo, quando si ha fame, tutta la coda ti scocci di farla. Esatto. Anche perché la fila di solito è bella lunga. Immagino, anche perché mi hanno detto che vengono pullman dappertutto. Sì. Dappertutto. Mamma davvero. Mia. Bellissimo. Bellissimo se non fai il cameriere. Ah, perché vi fate i camerieri? Io sì. Io no. Tu no, tu mangi, vai là per mangiare la polenta. No. Lui fa saltafila. Quello che sparecchia. Il lavapiatti. No, neanche io quello. Io sparecchio e guardo le fighe. È giusto, guarda, fai il cameriere. Giusto? Esatto. Diciamo così. E quando inizia la fiera, ragazzi? A settembre, sono qui. La seconda di settembre. Posso venire allora? Beh, vi vengo a fare un salto. Ci siamo carichi. Ovvio. Allora io mi ricordate i vostri nomi, così io quando. Elena. Matteo. E Matteo. Elena e Matteo, ragazzi, se volete andare alla fiera, chiedete di Elena e Matteo, che vi fanno il saltacoda. Bravissima. Esatto. Così quest'anno avrete. La gente allora, Elena e Matteo vi chiameranno tutti. Perfetto, si fanno i soldi. Cosa fate di bello, ragazzi, nella vita? Boh. Io studio e lavoro. Tu invece? Lavoro. E basta, pure io lavoro e basta. Tranquillo, è una cosa normalissima. Sono io quella prematura. State insieme? Che è stata bocciata. No, in realtà siamo cugini. Ah, siete cugini, siamo fantastico. Cugini. Ma lui fa parte della vostra comitiva qui fuori? Sì, lui allora, è il lui piccolino. È il mio vicino di casa preferito, si può dire? Certo, non si può dire. È il portaborsa però, eh? Esattamente. Guarda, sono questa serata è il portaborsa. Adesso te le libero, un attimo che te le libero. Un attimo, grazie, sei chicca anche con la borsa, tranquillo. Grazie Lorenzo. Lorenzo, secondo cameriere. Un saluto a Lorenzo con gli occhiali e con la borsa. Gli occhiali e la borsa sono i miei, ringraziamo Lorenzo. Fantastico Lorenzo, facci vedere anche come balli. Vai Lorenzo. Che stasera farai colpo con questa borsetta. È il migliore. Il Lorenzo è il migliore, ragazzi, ve lo dico. Anche senza borsa e senza occhiali. Purtroppo. Ma con è ancora meglio. È fantastico, ragazzi. Fa la differenza. Guarda che si è messo anche il giubbino. È il tuo anche il giubbino? Wow, sì. Certo, è tutto mio. No, stasera sei vestito alla Elena. Va bene, ragazzi, io vi faccio proseguire la serata con la tua con la festeggiata, Sara, auguri! E la Jenny. Auguri, Sara! Va bene, ragazzi, salutiamo è stato Sara, un piacere. Auguri. Auguri ancora a Sara. Ciao ragazzi. Ciao. Auguri Sara.